Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Dopo aver raccontato ieri lungamente, come era anche giusto, l'assemblea di Confindustria, le reazioni del mondo dell'economia, delle imprese, della politica, oggi che cosa ci presenta la giornata economico-finanziaria? Vorremmo partire con una buona notizia, fra poco capirete qual è, con una base che potrebbe essere uno su mille ce la fa. No, in realtà è un modo per non farsi demoralizzare dalla crisi occupazionale e cercare comunque di reinventarsi quando si perde il lavoro. Poi torneremo ai temi più classici di questo programma. Mi riferisco da un lato al vertice del G8, che ha, tra le altre cose, deciso di stanziare 40 miliardi di euro di dollari per il Nord Africa, per l'area mediterranea, il Medio Oriente. La domanda, cercheremo di capire da dove verranno questi soldi, perché non mi sembra che i paesi europei in questo momento, tra Grecia, consolidamento del debito greco, Irlanda e temi bancari, non mi sembra che vi siano tutti questi soldi disponibili. Poi parleremo chiaramente anche dei consumi. Vi avevo annunciato ieri che dopo il dato sulle vendite al dettaglio intervisteremo chi tra OVS, UPIM e Coin, si chiama Stefano Beraldo, è il numero uno del gruppo Coin. Beh, ha il polso delle vendite al dettaglio anche di fascia media, medio-bassa, come il target, medio-medio-bassa come prezzo, come il target di OVS, per capire se al di là del dato statistico dell'Istat di due giorni fa, un calo molto forte nelle vendite al dettaglio, non vi siano anche elementi che a noi sfuggono, anche a livello regionale, perché poi l'Istat aggrega giustamente i dati su base nazionale. Il paese però, come si dice ogni tanto, è molto lungo e quindi le differenze sono molto forti. Per quello che riguarda invece la borsa, vi arriveremo tra un attimo come sempre, segnalo solo due dati prima di passare ai titoli di borsa. Da un lato il petrolio che è tornato di nuovo sopra i 100 dollari al barile, a 101 dollari al barile. Dall'altro segnalo anche un record per il franco svizzero, che è a record sia su euro che su dollaro. Praticamente la moneta unica è calata a 1,216 franchi svizzeri, il dollaro è sceso a 0,85 franchi, moneta rifugio per definizione franco svizzero. L'euro nei confronti del dollaro si è rafforzato oggi a quota 1,42,42, borse tutte positive, chi più e chi meno. Diciamo che la più debole in questo momento è l'America, più 0,54%, meglio fanno le borse europee. Partiamo allora subito dalle borse, 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi ci divertiamo, comunque abbiate pazienza. Allora, si è beccato un abbassamento delle prospettive sul debito il Giappone oggi dell'agenzia di rating Fitch, che ha portato le prospettive da stabili a negative. Il debito pubblico giapponese è quello che batte anche quello italiano in proporzione al PIL e sta sfiorando il 200% del PIL nipponico. Dico per inciso che da più parti si paventa un rischio Giappone per quello che riguarda lo scenario economico italiano, dove però, attenzione, magari un giorno facciamo anche una puntata su questo. Il Giappone ha fatto 10 anni con una crescita bassissima, con una produttività abbastanza ferma, però il paese tutto sommato non ha conosciuto grosse tensioni sociali. È un caso abbastanza anomalo quello del Giappone, che vive con tassi praticamente pari allo zero. In realtà è chiaro che nell'abbassamento di voto di Fitch, nell'abbassamento sulle prospettive di voto da parte di Fitch, pesa anche lo tsunami in Giappone, il terremoto, perché da un lato la produzione industriale è scesa ad aprile del 78%, meno 78% della produzione industriale in Giappone sulla scia dello tsunami. Pensate a quanto è successo nei colossi Toyota, Honda e Nissan, che hanno bloccato praticamente La produzione, infatti, Honda ha fatto meno 81% quanto a produzione nel mese di aprile, Nissan meno 48,7%. E poi però dal Giappone arriva anche un caso interessante: è tornata a crescere dopo 28 mesi, cioè 2 anni e 4 mesi, l'inflazione, più 0,6%. Andiamo avanti, sale leggermente l'indice della fiducia americana a maggio, l'indice misurato dal Michigan, 74,3 punti, però sono di nuovo crollati i compromessi per l'acquisto delle case negli Stati Uniti, meno 12% da aprile dopo un rialzo a marzo, più 3,5%. Gli economisti avevano previsto una flessione ma molto molto più contenuta dell'1%. Arriveremo dopo al pacchetto da 40 miliardi di dollari per la primavera araba. Ho già detto che vorremmo capire da dove arriveranno questi soldi. E invece al G8, anche se in maniera più sottotraccia, si è discusso anche del prossimo direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Vi faremo ascoltare poi una dichiarazione di Christine Lagarde, che è ministro dell'economia francese. Sembra cosa fatta per la Lagarde, anche a livello ufficiale, il compromesso con i BRICS, ossia Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che avevano lamentato, insomma, e avevano criticato la nuova presenza di un europeo ai vertici del Fondo Monetario Internazionale. L'accordo potrebbe riguardare un co-direttore, quindi una figura, diciamo, di secondo livello, ma da dare a uno di questi quattro paesi. Passiamo all'Italia, perché da un lato oggi c'è stata un'asta di buoni del tesoro italiani, BTP a 10 anni, hanno registrato, per fortuna, e questa è una buona notizia, un calo nei rendimenti, una domanda pari a una volta e mezzo l'offerta, erano offerte 1,5 miliardi, la domanda è stata di 2,2 miliardi, il rendimento è leggermente calato dello 0,20% al 2,51%, BTP a 10 anni, rendimento lordo annuo. Allora, parte già la prima critica, e va bene, perché non dice disastro nucleare riferito al Giappone? Perché il motivo per cui si è fermata la produzione industriale in Giappone è stato il terremoto e lo tsunami. Il disastro nucleare sicuramente ha avuto un impatto incredibile, ma se parliamo del perché sono bloccate le fabbriche, sono stati in primo luogo gli effetti del terremoto e dello tsunami. Andiamo avanti, le retribuzioni in Italia sono ferme ad aprile rispetto a un anno prima, più 1,8%, se si considera che l'inflazione è al 2,6% sono ferme, anche un po' in calo. Questo è l'andamento della crescita delle retribuzioni ad aprile rispetto a marzo, ma anche rispetto a un anno prima, ripeto, più 1,8%, che è sotto il livello di inflazione. Tra l'altro, oggi, lo comunica l'Istat, si è scoperto che l'attesa per i rinnovi contrattuali è salita a 16 mesi, nel 2010 erano appena 8 mesi e mezzo, il tempo che ci vuole per rinnovare un contratto scaduto, quindi supera adesso l'anno e si va verso l'anno e mezzo, e ci sono quasi 5 milioni di dipendenti in attesa del rinnovo contrattuale, il 36,7% della forza lavoro. Qualcuno di voi ricorderà la vicenda dell'IKEA, abbiamo avuto ospite il sindaco, di due sindaci, quello uscente e quello appena eletto, che in provincia di Pisa l'IKEA aveva annunciato che dopo 6 anni di attesa mollava ogni tentativo di creare uno stabilimento in quell'area. Oggi il presidente della regione toscana Enrico Rossi e l'amministratore delegato di IKEA Italia Lars Peterson hanno raggiunto un accordo, IKEA continua a essere interessata all'intervento sulla costa toscana. Il comune era quello di Vecchiano, nel Pisano, e si tratterebbe del secondo punto vendita. Sempre sul fronte italiano, la marcia silenziosa di oltre 2000 imprenditori che avverrà a Treviso oggi, dopo c'è l'assemblea degli industriali di Treviso, un'associazione territoriale molto forte in Confindustria, già protagonista, se lo ricorderete, più di 10 anni fa, anche 15, della consegna delle chiavi delle aziende per la vessazione fiscale. Una marcia silenziosa che andrà da dove si tiene l'assemblea alla sede della Confindustria, il ministro Sacconi, raggiunto dal collega a Treviso di Radio Corriere Sole 24 Ore, Fernando Mancini, l'ha definito positive le marce silenziose. Sentiamo. Un'iniziativa sacrosanta, è una marcia silenziosa, e spesso nella storia del paese le marce silenziose sono state importanti. Ricordo quella di De Carolis a Milano negli anni 70 contro le ideologie che stavano affossando quella città anche in termini violenti. Ricordo quella dei 40.000 quadri a Torino contro l'ideologia nella fabbrica. Questa è una marcia dell'orgoglio imprenditoriale, giustamente silenziosa, come si conviene alle marce fatte da coloro che costruiscono ricchezza, per chiedere liberazione della capacità dell'impresa di produrre ricchezza. E poi Sacconi è un ministro trevisano, per cui ha particolarmente a cuore la situazione. Sulla relazione della Marcegaglia di ieri è tornato il ministro Sacconi, ha detto che la relazione va letta per intero, non si può estrapolare una frase per portare altrove la presidente Confindustria, che non è vero che, insomma, che la Confindustria ha fatto anche un apprezzamento al governo. Insomma, io dico una cosa, ormai ne abbiamo parlato per 40 minuti ieri, i titoli dei giornali oggi sono molto chiari. Emma Marcegaglia ha parlato di 10 anni persi, ognuno si metta la mano sulla coscienza e pensi a dov'era in questi ultimi 10 anni, compresi gli imprenditori, ci mancherebbe, i giornalisti e anche la classe politica. Poi andare con l'umicino a vedere dove c'è stato un commento positivo, dove c'è stata una critica, mi sembra un gioco così che lascio volentieri al dibattito polemico e politico. Pensiamo invece a come evitare che si perdano altri 10 anni, mettiamola così. Però partiamo con una buona notizia, con una notizia che alcuni giornali hanno già coperto, però volevamo parlare con il diretto interessato. 349-238-6666 per i vostri SMS. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita. No, non siamo impazziti. Qualcuno l'avrà vista questa notizia sui giornali. Praticamente il presidente di Google, intervenuto prima del G8 in Francia, Eric Schmidt, ha citato come modello da seguire un italiano. Ha detto, insomma, l'economia può crescere utilizzando tutto quello che offre la tecnologia e soprattutto internet. Deve imparare da un tassista di Mantova. Federico Öfer, dal nome poco mantovano, e poi chiederemo perché. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. È piaciuta? Uno su mille ce la fa? Stupendo. Speriamo che sia un augurio. Speriamo che siano più di uno su mille. Allora, lei ha 45 anni, va bene. E di dov'è originario? Io sono originario di Gela, che Sicilia. Il cognome la trarrebbe in inganno. Il cognome di origine tedesca. Beh, su questo ci arrivavo anch'io, il nome di origine siciliana. Possiamo andare avanti così tutta la puntata. Invece vorrei arrivare al tema. Lei è emigrato al nord nel 95, quindi quando aveva più o meno 30 anni, prima a Brescia e poi a Mantova. Cosa faceva? Ma niente, prima di questo ero nella grande distribuzione, grandi magazzini, punti vendita, insomma, ecco. Trafila normale, diciamo. Cioè faceva responsabile vendite? Faceva responsabile di punti vendita. Dove, se posso chiedere? Brescia, sul Mantovano, sì, responsabile di punti vendita, per un settore carburante o comunque supermercati. E poi che è successo? Niente, poi è iniziata appunto la crisi, mi sono trovato quasi dall'oggi al domani per strada. Cioè l'hanno licenziata? No, non mi hanno licenziato, hanno dovuto ridimensionare il personale, hanno venduto i punti vendita, per cui ci siamo trovati io con i colleghi praticamente per strada, quasi dall'oggi al domani, e ci siamo dovuti inventare qualcosa, almeno io quantomeno. Allora, lei insomma perde il lavoro, sì, possiamo non dire licenziamento, ma insomma, se chiudono alcuni rami d'azienda non c'è più la funzione del ruolo, si può girare, infatti, in tanti modi, ma insomma quello è, uno perde il lavoro. Lei quando l'ha perso il lavoro? Sono 3 anni fa praticamente, 3 anni fa più o meno, orientativamente. Nel frattempo ho fatto lavoretti, ma intanto mi sono dato un po' da fare, appunto mi è venuta questa idea, ho studiato un po' nel frattempo, ecco. Allora, io ho detto tassista, non è tassista, perché... È noleggio con... No, perché già noi abbiamo molti tassisti ascoltatori in tutta Italia, in cui intanto anche ci poniamo in maniera dialettica, ma sono dei grandi ascoltatori di questa radio, e giustamente uno mi ha subito ripreso. Certo. Allora, mi dica che cosa si è inventato come attività. Niente, appunto, dicevo, ho provato il noleggio con conducente, quindi sì, l'autonoleggio. Esatto, un autonoleggio. Che di per sé stessa non è una grande invenzione, mi lasci dire, no? Bravissimo, esatto, infatti quello che ho cercato di sottolineare anche ad altri, non è una grande invenzione. Ho provato a sfruttarla, però utilizzando appunto internet, perché dico, non sono di qua, non ho agganci, non conosco nessuno, però dico, potrebbe funzionare. Allora, vediamo come si è arrivati a fare che lei, che dalla Sicilia viene a lavorare al nord, perde il lavoro 3 anni fa, dice vabbè, dopo alcuni lavoretti mi riciclo e cerco di mettere su un'attività come quella dell'autonoleggio, che però, ripeto, non è né nuova né priva di concorrenza. Come si arriva da qui al fatto che lei venga citato al vertice del G8 dal presidente di Google? Mi manca un pezzo. Esatto, questo è anche un po' di fortuna, per essere sincero, è anche un po' di fortuna, quella la diamo... di essere citato, eccetera eccetera. Più punterei sul discorso del lavoro, cioè di averlo inventato e di avere sfruttato internet. Io punterei più su quello. Ecco, mi dica cosa ha fatto. Poteva essere una legge conducente, poteva essere qualcos'altro. Mi sono fatto un sito molto molto molto semplice. Ho cercato di, si dice, posizionarlo sui motori di ricerca. E fare in modo che la gente, se cerca un noleggio, un conducente o un taxi, perché comunque la gente cerca comunque sempre un taxi come parola, mi trovi, non so, a Verona, mi trovi a Mantova, e dico, è l'unico sistema. E pian piano ho visto che cominciava a funzionare. Ti arrivano le prime telefonate e vai avanti. Allora, fermo un istante, che confermo a chi ci scrive al 349-238-6666 che siamo amici e tassisti, perché sono i nostri grandissimi ascoltatori. E lo sanno tutti i tassisti che incontro durante l'anno, e non sono pochi. Vorrei capire esattamente, cioè lei ha messo su internet questa attività, ci racconti bene con che chiavi o che parole chiave per i motori di ricerca, che cosa offriva, cioè dov'è che sta il valore aggiunto di internet? Allora, le parole di ricerca fondamentali sono noleggio con conducente, ovviamente, poi le parole degli aeroporti, ovviamente, perché i servizi maggiormente uno li fa sugli aeroporti, in linea di massima. La parola taxi, ripeto, come ho detto prima, non è il massimo, nel senso che non è proprio adatta al tipo di attività, però la gente non conosce NCC, che sta per noleggio un conducente, conosce taxi, quindi spesso cerca il taxi, poi tu in seguito gli dici noleggio un conducente, e basta. Quindi sì, ho cercato di posizionarmi, ripeto, con alcune parole chiavi che possono essere noleggio un conducente aeroporto X, e la gente faceva in modo che di far uscire appunto i miei siti più in alto possibile, quello che fanno tutti quando cercano qualcosa in linea di massima, ecco. Okay. Allora, lei ha messo questa cosa su internet, che macchina ha, tra l'altro, che macchine ha? Io c'ho un Mercedes classe. E come se l'hai comprato, se era senza lavoro? È il leasing, comunque è una bella batossa che non ho ancora finito. Ci tengo a precisarlo. No, vabbè. Quindi compra questo Mercedes in leasing, o lo acquista in leasing, e mette il servizio sulla rete. Com'è andato il primo mese? Il primo mese è andato molto male. Molto male, nel senso che ho fatto pochissimo. Molto, molto poco il primo mese. Sono arrivato a malapena 300 euro. Credo di aver fatto 300 euro? Sì. Credo di aver fatto 300 euro il primo mese io. E perché non ha mollato? Perché sapevo che non potevo mollare al primo mese, sarebbe stati da pazzi mollare il primo mese. Se io apro un'attività, per piccola che possa essere, se mollo al primo mese è inutile iniziarla, ho pensato questo. Non aveva senso mollarla al primo mese, forse il secondo, il terzo, dopo un anno magari, puoi pensarci già di mollarla se proprio non va. Però voglio dire, il primo mese dico, ci può anche stare. Però certo è stata molto lenta, questo che sia chiaro, nel senso che non è un lavoro che ingrani immediatamente. No, ma non stiamo, questo non è un programma di collocamento o di cerca lavoro, noi vogliamo raccontare, diciamo, esperienze, nella speranza che siano di grandi manager come avremo dopo, che gestiscono gruppi con migliaia di dipendenti, o che siano di piccole iniziative, certo. Hanno interesse a usare le esperienze per dare, mamma che parolona, un paradigma, un esempio, un modello, chiamalo così. Allora, primo mese 300 euro, secondo mese? Secondo me se sono anche, forse sono arrivato anche a 600, se non ricordo male. E vabbè, una botta di vita. Terzo mese? Il terzo mese, madonna, mi devo andare a prendere i file. Vabbè, mi dica dopo un anno. Sono andato salendo, ci sono stati i mesi che rallentavo, il mese estivi ovviamente ho fatto molto di più perché ho visto che funzionava, io sono nelle zone qui del lago di Garda pure eccetera, e funzionava. Ripeto, è un po' ballerino, a dicembre hai molti servizi. Mi può dire quanto più o meno, adesso non voglio, non sono l'agenzia delle entrate, in questo periodo meglio non essere neanche Equitalia, però mi può dire quanto guadagna, com'è il giro d'affari, adesso non voglio la cifra esatta. Ascolti, con un'auto solamente, semplicemente con un'auto puoi arrivare a media, io faccio una media, intorno ai 5.000 euro, però sono lordi. Lordi, certo. Lordi vuol dire che, ecco, ci siamo capiti, insomma. Cioè non è, non sono, però vado avanti. Lordi non sono netti, questo. È bravo, esatto, cioè voglio dire si va avanti, però non è. Nel frattempo lei ha allargato anche l'attività, cioè ha fatto degli investimenti o questi soldi le sono serviti solo per ripagare i debiti precedentemente contratti? No, per ripagare i debiti ho investito sul web, vari strumenti che ci sono, sì, strumenti disponibili. Ci chiedono gli ascoltatori quanto ha pagato le parole chiave su Google. Le parole chiave su Google puoi pagarle anche 6 centesimi, 4 centesimi una parola chiave potresti anche pagarla. Se utilizzi gli strumenti giusti puoi spendere queste microcifre, fra virgolette. Ma lei quanto ha pagato? Sì, la media di un click era quella. Io potevo spendere anche 3-4 euro al giorno. 3-4 euro al giorno? Sì, certo. Sì. 3-4 euro al giorno sono un tot di click se tu li calcoli con 2-3... li calcoli 5-6 centesimi. Sì, più o meno 100-150 click. Bravo, esatto, è proprio quello. Mm. Ovviamente non tutti i 150 ti telefonano per chiederti un preventivo, però possono essere anche un 4-5%. Ecco, quindi il ritorno ce l'hai alla lunga e lo continuo a utilizzare. Fermo restando che lei è un, non è un tassista, è un noleggio con conducente NCC, sempre, e stavamo sempre parlando di Google perché la legge su questo giustamente è molto chiara, esistono le licenze per i taxi, su questo voglio essere preciso senza ombra di dubbio. È vero che lei nel frattempo, sviluppando questa attività, oltre che comprarsi anche un'altra macchina, riesce a distribuire anche lavoro a qualche collega? Sì, certo, necessariamente, perché ovviamente non ho questo gran parco mezzi che uno potrebbe magari immaginare, per cui necessariamente ti appoggio a un collega che magari c'ha un van, non ha l'auto ma è il van, per cui ci si scambia i servizi, funziona così in questo tipo di lavoro. Per cui comunque sì, il cliente è sempre coperto, non puoi mai dire no, non c'ho il mezzo, no, eccetera, eccetera. Allora, io vorrei capire ancora due cose rapidissime. La prima, perché ce lo chiedono, insomma, lei come ha fatto a improvvisarsi autista? Nel senso che ci chiedono, immagino, o suoi colleghi o tassisti o altre persone interessate all'attività, insomma, non è facile se non conosci l'area. Lei, se ho ben capito, porta soprattutto clienti dall'aeroporto di Verona, Brescia o Malpensa o Bergamo verso il lago di Garda, verso quella zona. Sì. Lei la conosceva già? Come ha fatto? La zona sì, la conoscevo comunque, sì, ho sempre abitato qui, stavo a Brescia città, avevo prima, comunque la conoscevo, voglio dire, la zona. E niente, poi come fare effettivamente a farlo, sì, ci sono delle licenze, ti prendi, è una licenza pubblica, ecco, perché molti non sanno che cos'è, molti mi dicono uso una macchina e vado a fare i servizi alle persone, dico no, devi comunque usare, devi avere una licenza, c'è una licenza comunale, come un tassista, tra virgolette. Adesso è la domanda più difficile, perché mi dovrebbe in conclusione dire qual è il suo consiglio, così un messaggio, un termine che non sopporto, ma insomma il suo consiglio, che cosa ha imparato da questa esperienza? Fermo restando che non possiamo immaginare che migliaia di persone si mettano a fare improvvisamente i conducenti di auto, ma c'è qualcosa da cui, se qualcuno le chiede, ma insomma che cosa ha imparato da questa vicenda, che bisogna metterci un po' anche di fantasia, che senza internet lei non si sarebbe mosso, insomma che cosa le è rimasto al di là dei soldi che sono la prima cosa? Ecco, sì, innanzitutto quello che posso dire è cercare di avere un'idea, anche per piccola che possa essere, e poi ripeto, il mio caso è sfruttare le nuove tecnologie, che siano auto, che siano agriturismo, che sia qualcos'altro, avere una piccola idea, in piccolo però, senza pensare troppo in grande, voglio dire. Gli sviluppi comunque possono arrivare, ma vederle in positivo sfruttando quello che la tecnologia attualmente ci offre, che sono mezzi comunque alla portata di tutti in questo senso. Ecco. Grazie, grazie. Grazie a voi. Federico Hofer, creatore del sito di noleggio auto. Posso fare io una pubblicità, visto che è stato così gentile? Si chiama LadyBlue.it. No, la facevo io però. LadyBlue.it, grazie, in bocca al lupo. Salve, buona serata. Adesso torniamo ai temi classici di Focus Economia, facciamo la borsa dopo il meteo, parliamo dei G8, parliamo anche delle vendite al dettaglio, ci mancherebbe, della Fincantieri, però ogni tanto è venerdì, è pure un weekend di tempo non bellissimo, un minimo di iniezione di ottimismo si può mettere, no? Pensiamo di sì. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, facciamo subito la borsa, però due risposte in una battuta. Allora, obiettivamente non capita a tutti, e questa è la fortuna di essere citati, mi riferisco al noleggiatore di Mantova, di essere citati in un vertice del G8 dal presidente di Google. Bisogna però provarci, e questa mi sembra l'unica lezione. Se non avesse fatto ciò che ha fatto non sarebbe stato citato. È verissimo, e rispondo ad altri sms al 349-238-6666, che non ha inventato nulla, e lo abbiamo detto più volte, ha applicato con un po' di fantasia quello che sono i vantaggi di internet a un lavoro assolutamente noto e tradizionale come il noleggiatore. Non ce l'abbiamo, le liberalizzazioni in questo caso non c'entrano nulla, quindi non sto parlando di liberalizzazioni, e ci mancherebbe. Dopodiché è vero che il valore aggiunto, e faremo anche una puntata su questo, delle applicazioni tecnologiche a settori anche tradizionali può essere infinito, e finché non lo si esplora comunque non lo si può sapere. Tutto il resto sono chiacchiere, le chiacchiere stanno a zero, la borsa invece sta a un più 0,80%. Milano, mentre Parigi più 0,86, Francoforte più 0,70, Londra più 1,1, l'America più 0,55%, euro in rafforzamento 1,42,70. Guido Maurino, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Banco Popolare il peggiore, ma di poco, è meno 0,56%, Ansaldo STS il migliore più 2,41%, Mediobanca più 2, come Unicredit, Intesa San Paolo più 1,80%, Mediolanum più 1,80%, Fiat più 1,60, Generali più 1,30, Pirelli più 1% come Buzzi Unicem, Exol più 0,90, ST Microelectronics più 0,70% come Fondiaria Assai e Prismian. Qui sono iniziate a circolare voci di un possibile alleggerimento delle norme di Basilea 3, cioè quelle che vanno a stringere sui requisiti, su quanto patrimonio deve avere una banca, quanto fine deve avere una banca in cascina per poter prestare dei soldi. La dico in maniera un po' semplice, ma spero comprensibile. Guido. Sì, sono indiscrezioni che erano riportate questa mattina dal Financial Times e di cui ha beneficiato buona parte del settore bancario europeo. Si spiegano così, ad esempio, rialzi di Mediobanca più 2,02%, Unicredit più 1,97%, Intesa San Paolo più 1,83%. Diciamo che, secondo quanto riportato appunto dal quotidiano londinese, l'aggiramento, se così possiamo dire, di Basilea 3 permetterebbe agli istituti che controllano compagnie assicurative una maggiore valutazione del capitale delle controllate assicurative. E un'altra norma che andrebbe a correggere Basilea 3 riguarda invece il periodo di emissione di strumenti ibridi. E, insomma, sono due norme che importanti e che potrebbero in qualche modo potrebbero avere dei benefici per i gruppi bancari. Sì, esatto. Insomma, Basilea 3, oltre che essere molto temuta dai piccoli imprenditori perché va a stringere sui criteri con cui le banche possono concedere prestiti, è anche un insieme di regole che ha obbligato molte banche italiane a fare gli aumenti di capitale, vorrei ricordarlo, Intesa 5 miliardi, Banco Popolare 2 miliardi e via così. Andiamo avanti, Ansaldo STS, miglior titolo, più 2,41. Ansaldo STS, più 2,41. 41% sulla commessa ricevuta per realizzare la linea 4 della metropolitana di Milano, un aggiudicamento provvisorio, un consorzio con altre imprese. Ansaldo STS è quella che ne ha beneficiato maggiormente, nel consorzio c'è anche Impregilo che ha guadagnato lo 0,36%. Ancora Fiat bene oggi, più 1,6%, al di là, diciamo, della dialettica, chiamiamola così, tra Confindustria e Fiat. Il motivo oggi è un motivo industriale. Sì, ci sono queste indiscrezioni su possibili nuove partnership con Suzuki. Ricordiamo che il Lingotto già realizza con Suzuki il mini SUV Fiat 16. Gli emissari di Suzuki sono stati visti a Torino nei giorni scorsi, questo ha alimentato voci di possibili nuove intese che si potrebbero raggiungere magari per produrre auto di piccola cilindrata, e Fiat ne ha beneficiato. Ancora sui titoli, l'automatica, volete sapere di l'automatica, ma insomma l'automatica probabilmente paga un po' la debolezza del dollaro, immagino, meno 0,22%, poi c'è anche una vendita di azioni gratuite, o sbaglio? Sì, c'è questa decisione che era stata presa dall'assemblea degli azionisti, che per cui veniva data un'azione gratuita ogni 50 possedute. Molti investitori hanno venduto questa azione in più nei loro portafogli, e questo negli ultimi due giorni ha pesato un pochettino sul titolo. Ancora andiamo sui migliori e peggiori della giornata. Allora, la compagnia immobiliare azionaria, la CIA, più 19%, AF più 9%, Green Vision più 5,80%, P Quadro più 5%, Class Editori più 4,34%, Male, Mer, Tecnimon meno 7%, Bastoggi meno 3,50%, Mondo Home Entertainment meno 3%. La CIA, intesa come titolo e non come agenzia di servizi segreti, e Mer, Tecnimon. Allora, per quello che riguarda la CIA, sono due giorni che il titolo va particolarmente bene dopo aver risolto una controversia che la vedeva contrapposta alla società Euro Airports, e quindi e questa è un po' la spiegazione. Per quello che riguarda Mer Tecnimont, continua il periodo no della società, che dopo aver lanciato una specie di profit warning a metà maggio ha praticamente bruciato metà della capitalizzazione. Era a 2,7, oggi è a 1,31. Grazie, buon fine settimana a Guido Maurino e a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Il traffico. 17:47 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso diamo degli aggiornamenti anche abbastanza rapidi, innanzitutto con il vertice del G8 di Deauville, dove l'obiettivo, già lo ricordavamo, era soprattutto quello di arrivare a misure congiunte per i paesi arabi. E queste misure sono arrivate, da quello che abbiamo capito, 40 miliardi di dollari di aiuti per la cosiddetta primavera araba, proposta fatta dal presidente francese Sarkozy. Si è parlato anche dell'economia in generale, mentre si è anche accennato, ma sotto traccia, alla nuova direttrice o direttore del Fondo Monetario Internazionale. La soluzione trovata lì è, visto che i paesi in via di sviluppo, o meglio i paesi che si stanno sviluppando e stanno crescendo in maniera molto forte, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, erano contrari a un altro europeo, è di affiancare a Christine Lagarde, ministro dell'economia francese, candidato appunto a prendere il posto di Dominique Strauss-Kahn, di agganciare un direttore aggiunto. Sentiamo la Lagarde, che in maniera molto trasparente dice: ho tutti i numeri per guidare il fondo, ho esperienza. Frankly, I don't think that it should be a European or an emerging economies Sinceramente, non penso che il punto sia se il candidato debba essere europeo o provenire da un'economia emergente. Penso che debba essere semplicemente un buon candidato. Credo che il processo di designazione debba essere aperto, trasparente e basarsi sul merito. Onestamente, penso che la nazionalità e l'origine non siano molto rilevanti alla fin fine. Ciò che importa sono le competenze, l'esperienza, la volontà, l'entusiasmo, il proprio bagaglio personale. Naturalmente il contesto culturale di provenienza contribuisce a formare l'identità di una persona, ma la nazione di origine alla fine non è un criterio di scelta. Io penso di poter guidare il fondo e fare un buon lavoro. Se guardo a cosa rappresenta l'istituzione e a cosa ho fatto in passato, penso di potercela fare. Sarei estremamente onorata e orgogliosa di servire il Fondo Monetario Internazionale. È un'istituzione fondamentale in questo momento. Gioca un ruolo primario nel gestire la crisi internazionale che sfortunatamente viviamo da un paio d'anni e deve continuare a svolgere questo ruolo. È difficile che la Christine Lagarde dicesse no, non sono in grado, forse il mio nome è sbagliato, ma insomma sembra che ormai la designazione di Christine Lagarde sia cosa fatta. Torniamo a Deauville, dove c'è uno degli inviati del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera. Domanda semplice, da dove li trovano 40 miliardi i paesi del G8? Perché l'America ha un deficit che viaggia oltre il 10%, in Europa lascio stare, la raccontiamo tutti i giorni, la crisi sul debito, e allora? Come sempre li fanno tirar fuori a qualcun altro, nel senso che intanto 20 miliardi vengono dati dalle cosiddette banche di sviluppo, quindi la Banca Mondiale, le varie banche di sviluppo regionale, l'African Development Bank, ci saranno il Fondo Islamico, il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Per quello che riguarda gli aiuti bilaterali dati dai paesi del G8, in realtà si tratta di cifre molto modeste. La Gran Bretagna ha parlato di 170 milioni di euro, scusate, 170 milioni di dollari. Gli Stati Uniti hanno parlato di 2 miliardi per l'Egitto, 2 miliardi di dollari, però un miliardo è una cancellazione di debito. Quindi, come sempre, quando vengono fatte queste promesse, le addizioni sono un po' viziate dal fatto che alcune delle cifre o erano già sul tavolo o comunque non sono cifre un po' virtuali. Virtuali nel senso che appunto fanno molta scena, ma poi non li tiriamo fuori noi come europei questi soldi, mi sembra di capire. I soldi verranno tirati fuori in gran parte dalle istituzioni finanziarie internazionali. Che già li hanno, a cui noi già li versiamo, certo. A cui già sono stati versati e che hanno un reddito loro, perché i vecchi prestiti vengono rimborsati e quindi in qualche modo, siccome sia il Fondo Monetario che la Banca Mondiale, tanto per fare due esempi, funzionano come delle banche, a un certo punto ottengono degli interessi e dei rimborsi di vecchi prestiti e con questi fanno i nuovi prestiti. In passato si trattava, non so, di America Latina o di Asia, che erano i principali clienti di queste istituzioni, adesso saranno, oltre ai paesi dell'area euro, che già li stanno ricevendo, anche i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Un'ultima domanda, Alessandro, dammi un tuo giudizio su questo G8, sai che noi siamo da sempre un po' scettici su queste kermesse ormai molto mediatiche, però insomma utile, abbastanza utile, utile solo per i paesi arabi, inutile, quattro possibilità, la 1, la 2, la 3, la 4. Direi più utile che in altri di questo genere in passato, dove si sono avute solo delle dichiarazioni di principio, come dicevi, bisognerà poi vedere se questi soldi sono effettivamente sul tavolo o no, però intanto sono stati promessi. E il G8 ha mostrato una certa unità di intenti, ha anche ritrovato un po' di centralità, un ruolo che aveva perso, parliamoci francamente, nello scacchiere internazionale, perché era stato soppiantato nella gestione della grande crisi globale dal G20, cioè il gruppo nel quale oltre agli 8 ci stanno anche gli emergenti. Stavolta ha trovato il suo ruolo in questo supporto alla primavera araba, ha parlato con una voce sola. Diciamo che è stato abbastanza efficace. Grazie Alessandro Merli, inviato appunto da Sole 24 Ore a Deauville. Adesso c'è il nostro GR, poi torneremo per parlare da un lato della vicenda Fincantieri, dall'altro anche appunto di come vanno le vendite al dettaglio, e lì invece di allegria ce ne sarà molto poco. Vendite al dettaglio vogliono dire consumi. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Prima di arrivare al tema dei consumi, vorrei darvi alcuni aggiornamenti, perché è in corso appunto la marcia di 2000 imprenditori, in marcia silenziosa a Treviso, dallo stadio del rugby dove si è tenuta l'assemblea degli industriali all'area Piani, dove c'è la nuova sede di un'industria a Treviso. Marcia silenziosa. Inutile forzare le interpretazioni e le analisi. È arrivata questa decisione dopo un direttivo Confindustria del Veneto. Sostanzialmente è un disagio per quello che è la situazione dell'industria trevigiana e del Veneto, perché ha l'appoggio anche del presidente degli industriali veneti Andrea Tomat. Non è nuova una manifestazione del genere, però era diverso il caso degli anni 90, quando appunto presidente Tognana al tempo furono consegnate le chiavi degli imprenditori. Sentiamo Marcegaglia, che è presidente Confindustria, presente oggi a Treviso per l'assemblea degli industriali. Non è una manifestazione contro nessuno, è una manifestazione dove gli imprenditori dicono: noi camminiamo sulle nostre gambe da sempre, non chiediamo niente di particolare, chiediamo solo di poter lavorare, come dire, seriamente, senza intralci, e quindi è una manifestazione di impegno civile, anche a dimostrazione del, soprattutto in questa terra, di quanto le aziende contribuiscono anche proprio alla crescita della società, ad aiutare tutta la società. È interessante che tra l'altro sfilano assieme agli imprenditori anche gli artigiani del Veneto. È un disagio, mi sembra molto chiara la lettura della presidente di Confindustria, no? Lo dico perché alcuni hanno dichiarato: ma è una manifestazione contro il sindacato, contro il governo. Insomma, è una manifestazione per un disagio profondo di una parte importante e produttiva del paese. Altra notizia: noi non ci dimentichiamo le cose, lo dico in questo caso al governatore o al presidente della regione Lazio, Renata Polverini. Forse qualcuno ha già capito dove voglio arrivare. Il caso Santa Lucia è un ospedale di Roma specializzato nella riabilitazione neuromotoria per adulti e soprattutto per bambini affetti da gravi handicap. Perché ce ne stiamo occupando da mesi? Perché intanto mancano i soldi, o meglio, praticamente è la regione Lazio che deve dare qualcosa come 78 milioni di euro all'ospedale Santa Lucia. Due giorni fa, manifestazione di malati e dipendenti in carrozzino a piedi davanti al palazzo della giunta regionale. Sono 4 milioni di 200 mila euro sugli arretrati del 2010 sottoscritti il 7 aprile, che ancora non sono arrivati. La Polverini se l'è presa col sindaco Alemanno, perché c'era il vice della Commissione Capitolina sulla Sanità e il presidente della Commissione Romana sulla Sanità, Fernando Aiuti, Maria Gemma Azzuni. Molto piccata la risposta della Polverini: ognuno si occupi di quello che vuole, a noi non interessa la polemica tra Alemanno e la Polverini, ci interessa che la Regione Lazio tiri fuori questi soldi, vada a risparmiare sulle consulenze, faccia quello che vuole, ne abbiamo già parlato, se no torneremo sul tema. Non è una minaccia, è semplicemente una promessa. E per concludere questa brevissima carrellata, adesso ci occupiamo di multe. Perché ci occupiamo di multe stradali? Perché lunedì, come ormai avviene da due settimane, in omaggio con il Sole 24 Ore, c'è un'altra delle guide dedicate, le cosiddette guide pratiche del Sole 24 Ore. E allora, Rossella Cadeo, buonasera. Buonasera. Rossella, ho già anticipato io il tema, sì. Un tema a cui sono molto vicino, ho preso nella mia vita una marea di multe. Che guida è quella sulle multe? Non è come non prenderle, immagino. No, basta il codice della strada. Vogliamo fare un po' il quadro della situazione, delle multe, quali sono le regole ora a un anno quasi dall'ultima riforma del codice della strada, che ha portato delle novità anche proprio sul versante delle multe. La novità più importante è che adesso il verbale deve essere consegnato, trasmesso all'indirizzo del trasgressore entro 90 giorni, pena la nullità del verbale stesso. Questa è una delle cose. Comunque la nostra guida è una guida di 6 pagine che vuole appunto essere una sorta di bussola per il cittadino, che è il guidatore, una bussola dal verbale al riscatto dei punti, al recupero dei punti quando si dovessero perdere, proprio come sanzione accessoria nei confronti rispetto alle multe. Sono 6 pagine, si parla di notificazione del verbale, si parla di pagamento, i termini del pagamento, come pagare per evitare di pagare troppo, come si fa ricorso. Ci sono 2 vie, una dal prefetto e una dal giudice di pace, spieghiamo quali sono gli effetti delle procedure e gli effetti di queste 2 alternative, la rateizzazione della multa, perché anche questa è una novità introdotta dalla riforma lo scorso anno, e poi parliamo anche del sistema dei punti, come si perdono e come si recuperano. Purtroppo come si perdono lo so benissimo, come si recuperano che mi sfugge. Comunque immagino che sarà una delle guide più lette, visto il tema. Grazie alla collega del Sole 24 Ore, Rossella Cadeo. Andiamo sul traffico, visto che parliamo di multe, e poi parliamo di consumi e di come si muovono i consumi all'interno del paese. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, 2 giorni fa il dato Istat sulle vendite al dettaglio era un dato particolarmente negativo, un calo che non si vedeva dal gennaio del 2010 nei consumi, meno 2% rispetto a marzo, e particolarmente male il comparto alimentare, meno 2,5% su base annua, male anche mobili, meno 2,3%, abbigliamento meno 2,3%, calzature meno 2%. Parliamo allora di consumi, di vendite, soprattutto con uno dei più importanti operatori sul mercato italiano. Dicevamo quindi un dato di marzo con un calo brusco, il più brusco appunto dal gennaio del 2010 nelle vendite al dettaglio, nei consumi, ma al di là delle percentuali di calo che ricordavo prima dei vari settori, la cosa che a noi ha lasciato più perplessi va anche contro quello che è il comun sentire, la vulgata più ricorrente, è l'andamento dei grandi negozi, della grande distribuzione rispetto ai piccoli negozi. Perché, nonostante si pensi sempre che la grande distribuzione monopolizza, spadroneggia rispetto ai piccoli, su base annua la grande distribuzione ha perso il 2,1% rispetto ai piccoli negozi, che hanno perso meno del 2%, l'1,8%, e il calo si è fatto sentire soprattutto sugli ipermercati, quasi il 4% rispetto a marzo del 2010. L'unico settore positivo a marzo risulta essere quello degli esercizi specializzati, quindi negozi dedicati a una o a pochissime tipologie merceologiche, mobile, abbigliamento, libri. Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin, buonasera. Buonasera. Allora, lei è nostro ospite già altre volte per raccontare come si reagisce alla crisi. Gruppo Coin, grazie anche all'operazione OVS UPIM, nel 2010 ha fatturato un più 38%, ripeto, dentro c'è anche da rettificare il dato sull'operazione, ma comunque avete fatto un utile di quasi 50 milioni di euro, 48 milioni di euro, 10.000 dipendenti, quasi 800 negozi in Italia e 84 all'estero, 920 milioni di euro di fatturato. Questa è la premessa per dire che voi, insomma, siete sempre citati come un caso virtuoso. Allora, l'avete registrata anche voi il calo a marzo? Sì, a marzo c'è stato un calo importante, che è un dato che mi sembra essere anche una costante a livello europeo. Mi sono confrontato con alcuni colleghi inglesi, spagnoli, francesi. Marzo è stato un mese pesantissimo per il retail, però con 2 motivazioni importanti, una di carattere climatico, è stato un mese molto piovoso, ma una ancora più importante legata al calendario delle festività, la Pasqua nel 2011 si è posizionata verso fine aprile, mentre quindi con un mese quasi di ritardo rispetto all'anno precedente. Questo ha generato un forte ritardo in quella componente di acquisti legati comunque agli aspetti, agli acquisti prefestivi, che infatti ha trovato abbondantemente una compensazione nei mesi di aprile e maggio. Però in generale, ahimè, le vendite al dettaglio in tutto l'anno 2011 stanno soffrendo, lei ricordava che soffrono anche a livello europeo. Voi questo lo registrate, registrate una difficoltà, oppure ci vuole raccontare, tra virgolette, qual è il segreto del vostro successo? No, qui non c'è nessun segreto. Intanto la difficoltà sicuramente c'è. Noi stiamo registrando vendite dall'inizio dell'anno intorno alla parità ad oggi, con una COIN che sta ancora registrando vendite a parità positive di qualche punto, mentre OIS è intorno allo zero come crescita rispetto all'anno precedente, in un contesto di mercato in cui ancora vediamo un consumatore molto guardingo, molto prudente. Direi che i dati di differenza tra piccoli e grandi mi sembrano marginali. Il vero dato che emerge importante è quello che lei citava sugli ipermercati. Anche noi stiamo vedendo che le formule commerciali più in crisi sono quelle fuori città, che non hanno quella dimensione, quella capacità di attrazione tale da giustificare visite nuove, visite addizionali, che concorrono costantemente solo sul prezzo e che sono forse un po' alla frusta come formato in generale rispetto ai formati di centro città. Quindi certamente riscontriamo una situazione di consumi molto, molto ancora fragile. Non vediamo segni di ripresa, con alcune debolezze in particolare a livello geografico, in Sicilia, dove sembra che viviamo un'Italia a due velocità, ormai da 2 anni di fila. Il sud Italia sta facendo molta fatica, la Sicilia, certe aree della Campania, in particolare della Puglia, della Calabria, stanno facendo molta più fatica dal resto d'Italia. Ahimè, i recenti dati sulla disoccupazione giovanile in Sicilia, per esempio, che viene dichiarata intorno al 45-50%, sono assolutamente preoccupanti. Ma noi spesso usiamo voi, cioè chi lavora nel largo consumo, come si chiamava una volta, per capire e interpretare, dare diciamo corpo ai dati statistici, perché poi si può dire i consumi sono in calo, si può dire c'è la disoccupazione, poi però quando parli con chi gestisce gli autogrill, con chi gestisce Coin o OVS, i punti vendita, capisci molto più concretamente quanta sia la difficoltà delle famiglie al di là della retorica politica, c'è la crisi, non c'è la crisi. Quindi lei mi conferma che in alcune aree del sud questa difficoltà, diciamo, nei consumi familiari si sente in maniera pesante, e voi la vedete anche perché con OVS soprattutto, ma anche con Coin, offrite anche prezzi diciamo per la fascia media, oltre che medio alta in Coin, ma anche media e medio bassa, quindi lì notate una difficoltà forte? Ma direi in modo drammatico, cioè è una cosa ormai che è consistent da 24 mesi. La Sicilia sta perdendo a livello di emorragia consumi anno dopo anno, segno che evidentemente si sta delineando un nuovo tipo di consumo alla ricerca di posizioni di prezzo ancora più economiche, e una riduzione oggettiva del consumo. Non è un fatto di collezioni, lo stesso abito, la stessa collezione a Bologna, a Trento, ha un certo venduto, e in Sicilia ha un venduto totalmente diverso. Questo ormai da 2 anni. Quindi cioè da quando è iniziata la crisi? Io su questo esprimo una grande preoccupazione per il Paese, perché il Paese oggi sta ancora più accentuando la sua attitudine a viaggiare a due velocità. Io non so più come dirlo, nel senso che la stiamo raccontando da 2 anni, questa crisi, prima finanziaria, poi occupazionale, adesso nei consumi, si è trasferita in questo modo, anzi prima finanziaria, poi economica, poi occupazionale, adesso nei consumi. Sembra ogni tanto, a giudicare dai messaggi che arrivano, che vogliamo fare menagramo, che vogliamo vedere le cose più nere di quello che non siano, poi quando parli con gli operatori ti dicono appunto: guarda che in Sicilia i consumi sono in calo da 2 anni, e in calo drammatico anche in altre parti del sud. Beraldo, secondo lei che cosa si potrebbe fare? Cioè, è chiaro che tu non consumi, non vai a comprarti un'altra maglietta o un asciugamano se la situazione economica la vedi in chiave negativa e se obiettivamente non hai avuto incrementi salariali, ma come mai secondo lei nel centro-nord del paese voi non notate una contrazione così forte? Cioè, lei si sarà dato una spiegazione, da dov'è che arrivano i problemi per voi, chiaramente, per i vostri clienti? Allora, io penso che purtroppo qui il discorso diventa lungo e le ricette sono molto complesse. Credo che la spiegazione del perché al centro-nord la fragilità dei consumi non si vede meno è anche frutto di un effetto di comunque abbassamento dei prezzi medi che il cliente cerca, che stanno andando un po' a beneficio dei formati che io sto presidiando, perché OVS e la stessa UPIN certamente si esprimono nei prezzi, nei posizionamenti di prezzo medio-basso, e questo effetto, come dire, filtro che il mercato ormai sta vedendo di trading down generale è un dato che ci consente ancora di tenere alti volumi su clienti addizionali che scendono da categorie di acquisti superiori verso i nostri posizionamenti, il che congiunto con il lavoro interno che stiamo facendo noi di riposizionamento verso l'alto del valore percepito della shopping experience nei nostri negozi, credo ci consenta di incrociare un dato che di per sé è negativo, cioè il trading down generale, con la possibilità di contemperare però quell'aspetto aspirazionale di questo cliente che, ridotto al potere d'acquisto, è costretto a scendere di un livello, ma trova, per fortuna mia, in OVS un formato più pronto di ieri ad accoglierlo. Cioè voi avete con prezzi più bassi e quindi andate a intercettare chi prima poteva spendere di più, però allo stesso tempo, sì, allo stesso tempo cercate anche di, passi il tema, di ammantare in maniera più alta l'esperienza di andare in un negozio con i OVS e quindi rendere un po' più la parte emozionale un po' più alta, e quindi in questo modo riuscite a riequilibrare, intercettate chi scende nella scala del prezzo e però non lo fate sentire un poveraccio, se mi perfetto, è la fotografia, e credo che se lei vede molti dei nostri negozi attuali rispetto a quelli che avevamo qualche anno fa, lo vede immediatamente, lo percepisce. Cioè, come andare a mangiare una pizza in una pizzeria che non sia proprio una cosa squallida. Dove vede il forno a legna, dove esatto, vede il forno a legna, allora tu spendi, vedi, non vai più al ristorante, però anche mangiare la pizza lì ti dà un senso di non essere proprio finito, sì, cioè, devo dire che in braghe di tela. Lavorando anche molto sulla qualità della pizza, il cliente alla cassa quando paga non è mai stupido, riconosce che noi abbiamo fatto un lavoro impressionante sulla qualità, abbiamo introdotto nuovi marchi, questo spiega perché riusciamo a reggere. Però il dato globale, il dato oggettivo del nostro paese è un dato comunque in cui i consumi calano. La realtà è che se non si cerca di intervenire in modo strutturale su questi meccanismi diabolici di gap tra il valore della paga del lavoratore dipendente, quindi il potere d'acquisto reale, e il costo del lavoro, questo paese continuerà a comparire nelle statistiche dei paesi che hanno una ricchezza elevata ma una propensione alla crescita inesistente. Lei immagini i bilanci delle società che fanno commercio, dove il costo del lavoro aumenta del 3-4% ogni anno perché si rifanno i contratti, ed è giusto che sia così. Questi quattrini vanno a finire tutti al 70% allo Stato, perché vengono intercettati da contributi previdenziali e imposte. Il lavoratore dipendente ha un potere d'acquisto inadeguato, riduce la sua capacità di spesa, e questa spirale negativa continua. Grazie, siamo in chiusura. Grazie a Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin. Grazie a lei, arrivederci. È importante, importantissimo sapere che cosa succede. Io sono rimasto sorpreso mentre Beraldo diceva che hanno dei dati impressionantemente negativi dal sud sui consumi. Sfuggono anche a noi queste cose, poi potremmo riaprire il tema del tassare un po' di più i guadagni da patrimonio, non i patrimoni, i guadagni da patrimonio, un po' di meno il reddito da lavoro. Ma come dire, questa è un'altra storia, e un'altra storia inizierà lunedì prossimo alle 17, perché Focus Economia termina qui, e me non resta che ringraziare come sempre Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza al programma in redazione. Augurare a voi un buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.